A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Il traghetto attracca sull'isola del Giglio e in questo scoglio di terra su cui il mondo intero sta accendendo i riflettori scarica di continuo nuovi mezzi di soccorso, rifornimenti per una popolazione all'improvviso triplicata, scarica i vecchi incubi di chi è sopravvissuto al naufragio e le nuove angosce di chi ancora cerca un fratello, un figlio, un amico inghiottito dal mare in una notte di gennaio che ha trasformato una vacanza da sogno in una delle peggiori sciagure della navigazione italiana. La gente che usciva dalle zattere o a nuoto, addirittura qualcuno, perché io ho portato uno in casa che era completamente bagnato, intirizzito, infreddolito, l'ho portato su in casa, l'ho cambiato, l'ho riscaldato. Come una naufraga, anche la statua della Madonna che era sulla Costa Concordia è stata raccolta, avvolta in un asciugamano, imbragata e portata a terra nella chiesa dell'isola che nella notte del naufragio avvolse i sopravvissuti e li scaldò anche con i paramenti di Don Lorenzo. Se li sono presi loro i paramenti, no? Però io li ho visti e siccome li usavano con rispetto, no? Perché toglierglieli? Ecco, io ho pensato a una specie di abbraccio, no? Ecco, vedere, non so, uno stendardo che si usa per la processione della Madonna, vederlo come coperto sulla pancia di un indonesiano o di un filippino, pensare che la Madonna lo copre, a me mi faceva piacere, perché andare a toglierglielo? Dalle scale della parrocchia, la Concordia appare sullo sfondo, estrema propaggine della costa, santuario laico di chi ancora spera di ritrovare i propri cari e di quanti sono scampati al mare. We were just, you know, came back to see what the ship looked like. Sono venuto per vedere la nave, quella notte era buio, c'era confusione, racconta uno dei passeggeri, Oscar Rosales, dal Texas, tornato sull'isola insieme alla figlia per pregare e ringraziare. Sono andato abbastanza un po' vicino a quella parte lì. Lui stava riposando nella sua stanza, ha sentito proprio questo botto e l'acqua nella sua stanza. Uno dietro l'altro, nei giorni successivi al naufragio, su questo scoglio di terra catapultato in mondovisione, il mare porta i familiari dei dispersi, partiti da ogni parte del mondo. Vanno fin sotto la nave, col suo mondo ribaltato, in processione, proprio come fecero i passeggeri quando un ordine di evacuazione, arrivato forse troppo tardi, li invitò a lasciare questo palazzone di 11 piani, con i giubbotti addosso che richiamarono la gente dell'isola. Verso mezzanotte e mezzo la mia attenzione è stata attirata da delle luci che provenivano dalla scogliera che è di fronte al porto, che quindi è, diciamo, perpendicolare a come è ora posizionata la nave. Delle luci lampeggianti che ho individuato subito essere giubbetti di salvataggio, quindi significando che gente si era buttata in mare ed aveva risalito la scogliera. Lì abbiamo trovato un centinaio di persone che si erano buttate in mare dalla poppa della Concordia. E lì c'era anche il comandante della Concordia. C'erano delle persone molto più in basso sulla scogliera. Alla mia richiesta di seguirmi, loro mi hanno detto che erano membri dell'equipaggio, tra cui il comandante, e che dovevano stare lì per verificare l'andamento della situazione. Quindi erano sugli scogli, questo mentre le persone ancora scendevano dalla nave. Io gli ho detto allora che era. Era intorno a mezzanotte, le persone sono scese, sono le ultime sono state evacuate. Le ultime sono state evacuate alle 4:45. Lei ci ha parlato col comandante? Sì. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vado a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, sto andando. E mi dica qual è il motivo per cui non ci va. No, ma si rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla. E che vuole tornare a casa, schettino? Vado a bordo, cazzo. All'isola del Giglio, questa ormai celebre telefonata tra il comandante della nave, Francesco Schettino, e Gregorio De Falco, guardia costiera di Livorno, arriva preceduta dal clamore che ha suscitato e si mescola con i ricordi diretti, le scene vissute o quelle raccontate degli isolani. È uno degli elementi centrali dell'indagine questa telefonata, perché è soprattutto nel comportamento di Schettino che la procura di Grosseto, guidata da Francesco Verusio, individua le principali responsabilità di una sciagura, costata già troppe vite. Le il comandante della nave ha accostato troppo la nave verso l'isola del Giglio, non poteva avvicinarsi così tanto, si è avvicinato così tanto che era inevitabile l'urto con questo scoglio che stava sotto il mare, ha praticamente tranciato tutta la parte laterale della nave che si è subito inclinata su un lato, il comandante ha abbandonato la nave molte ore prima che terminassero le operazioni di salvataggio di tutte le persone che si trovavano sulla nave. All'isola del Giglio, la divisa di quella sera del comandante la ricordano in tanti. C'è chi ha raccontato che Schettino avesse con sé anche il suo necessaire, c'è chi giura avesse anche un PC. Tutti assicurano che era perfettamente asciutto insieme al suo vice e ad altri membri dell'equipaggio. Descrivono di un comandante che ripeteva che lo scoglio non era segnalato, che non voleva spostarsi da lì, ma che al cellulare assicurava che sulla nave non c'era più nessuno. Un goffo tentativo di minimizzare, così come era stato fatto prima con i passeggeri, a cui a lungo era stato ripetuto che c'era solo un problema elettrico. Le informazioni, quelle date e quelle omesse, quelle minimizzate o quelle trasmesse, hanno fatto forse la differenza tra un incidente che poteva restare forse senza vittime e un naufragio diventato una trappola per tanti. E ora forse quelle comunicazioni di quella notte faranno la differenza tra i sommersi e i salvati dell'incidente. Inchiesta. Lo spartiacque lo traccia a quell'ora e un quarto di buco tra l'impatto sugli scogli delle scole alle 21:42 e l'evacuazione alle 22:58. A chi disse il comandante quanto stava succedendo? Il suo avvocato Bruno Leporatti ripete che Schettino ha sempre tenuto al corrente di quanto avveniva alla Costa Crociere, la sua compagnia, che lo ha però ufficialmente e pubblicamente scaricato, parlando da subito per bocca del suo amministratore delegato Pierluigi Foschi di errore umano. Potevamo salvarli tutti, ripete, con un allarme dato in tempo. Noi non possiamo negare, purtroppo, un errore umano che nella vicenda si è identificata con questo tragico incidente. La ricostruzione della notte del naufragio, oltre che sulle comunicazioni, passa anche attraverso i complicati rilievi sulla stessa Concordia. E agli atti dell'inchiesta ci sono pure i filmati dei carabinieri subacquei di Genova guidati dal capitano Luca Falcone. Le attività che abbiamo svolto oggi sono state delle verifiche, delle ispezioni sulle catene, sulle ancore, per verificare esattamente come sono posizionate sul fondo, per verificare se sono state gettate poco dopo l'impatto per fermare l'abbrivio, ossia il movimento della nave, oppure successivamente quando la nave si trovava già ferma. Voi avete avuto anche il compito di entrare all'interno della cabina del comandante della Concordia. Stiamo cercando di accedere alla cabina e non è molto semplice in quanto una porta d'accesso è bloccata dai detriti che sono all'interno. Le ultime ore della Concordia, ma anche la risposta ad alcune zone d'ombra di quella notte, sono nella scatola nera della nave, già nelle mani degli investigatori, ma potrebbero essere pure nei documenti custoditi nella cabina del comandante. È impressa invece nella memoria dei sopravvissuti e di chi li ha soccorsi la confusione, il panico, lo sbandamento di quei drammatici ultimi momenti che forse non furono gestiti adeguatamente, secondo chi accusa, che ha raccolto agli atti le testimonianze anche di quanti fecero il percorso inverso rispetto a chi scappava dalla terra, cioè verso la nave naufragata, come il vice sindaco dell'isola Mario Pellegrini. Lei quella sera dall'isola è andato a bordo della nave? Sì, sì. E che situazione si è trovato? Ho trovato una situazione di confusione, di non controllo. Sono andato in giro per la nave, ho toccato anche la coperta superiore per cercare gli ufficiali, perché il mio compito era solo di coordinare gli sbarchi. E dove erano gli ufficiali che dovevano dare le indicazioni per l'evacuazione? Non ne ho trovato. Se tutto questo è successo dopo, quando la nave era ormai già spiaggiata davanti al porto dell'isola, l'indagine è partita con una domanda soprattutto: perché una nave così grande procedeva così vicina alla costa e cosa successe prima delle 21:42, ora della collisione? Dallo scoglio delle scole, andando indietro, partirà la seconda parte di A ciascuno il suo. trenchini, donne bionde, vecchie usanze del mare e piccole sfide dalle drammatiche conseguenze. Dallo scoglio delle scuole sembra quasi di poterle toccare con mano le case dell'isola. D'estate in tanti nuotano fin qui e vista da queste rocce la Costa Concordia, ora inclinata, sembra ancora di più un gigante finito in un'isola piccola piccola. Vista da qui, dallo scoglio che l'ha uccisa, la Costa Concordia appare ancora più grande e ancora più vicina alle case del Giglio, troppo per la sua stazza, troppo per quello che le rotte le permettevano e che l'esperienza suggeriva. Ma allora perché un rischio così? Perché la Concordia decise quasi di sfidare l'isola in una roulette russa con gli scogli? Fu una sfida tra il comandante e gli ostacoli per primeggiare col suo maestro davanti agli occhi forse di una giovane donna, o fu un omaggio a due abitanti del Giglio? Nel gergo del mare si chiama inchino l'usanza delle grosse navi di avvicinarsi alla costa, farsi vedere con le loro luci, talora suonare e poi andare via tra le onde. L'inchino, quel venerdì 13 gennaio, la Costa Concordia pare volesse farlo a questo vecchio ex comandante della compagnia originario dell'isola, Mario Palumbo, che però non era lì, ma a Grosseto, come sempre d'inverno e come aveva lui stesso detto proprio pochi minuti prima dell'impatto al telefono col comandante Schettino e col maître della nave, anche lui gigliese. Io ho già parlato con la procura e quindi ho risposto a domande generiche e tecniche. Quello che dovevo dire l'ha detto, non ero là, come sapete, ero qui a Grosseto. Basta, io non voglio parlare. È stato rimangato il mio passato, mi ha dato fastidio. Erano sulla terrazza di casa, invece, e la Concordia l'avevano vista benissimo quella sera i familiari di Antonello Tievoli, il maître della nave. Come sempre, prima di ogni imbarco, lui aveva chiamato gli anziani genitori e li aveva avvisati del passaggio nei pressi dell'isola. Loro sapevano l'orario e, come tante altre volte, anche quella sera, erano usciti fuori dal portone per guardare questo palazzo illuminato fendere di notte il mare con le sue luci a bordo e la promessa di sfavillanti feste, e allo stesso tempo anche mandare un virtuale saluto al figlio a bordo. La sorella del maître lo aveva scritto pure su Facebook che verso le 21:30 la Concordia sarebbe passata vicino vicino, più del solito però, come notò subito Giuseppe Tievoli, padre del cuoco. Ogni partenza da Civitavecchia avvisa, stasera passiamo alle 9. Ecco, e vi aveva detto quindi più o meno a che ora sarebbero passati? Le 9:30 mi sembra. E quella sera appunto l'avete vista avvicinarsi la nave? Sì, l'abbiamo vista qui fuori, un pochino più in terra, ormai era già accaduto il guaio, perché le scuole, lo scoglio delle scuole, da qui saranno 500 metri. Voi quando avete visto la nave vi era sembrata già più vicina del solito? Un pochino sì, dico, ma a me mi sembra un po' in terra, detto in stile gigliese, no? In terra, fuori, eccetera. Mi sembra, niente, a pensare a quel guaio lì, come si fa? La nave si era avvicinata anche appunto per far vedere le luci dell'isola. Quello è il motivo, quando passano quelle navi lì è uno spettacolo dall'illuminazione. Era abbastanza frequente che le navi si avvicinasse per fargli vedere le isole? No, leggermente avvicinarsi. Ecco, vede, dove c'è quella barca lassù adesso, vede? Più o meno quella distanza lì, sarà un miglio, due miglia, non lo so com'è. Dicono che anche con un precedente, un vecchio comandante, sì. Palumbo, sì. C'era un po' questa... è una tradizione. Ma tutte le navi 20-30 anni fa, no? Quando qui il porto l'80% facevano marinai, e quando passavano, fischiavano, se era l'estate quelle barche andavano sotto, si avvicinavano, la moglie, figlioli, la fidanzata, eccetera. Secondo lei si sono avvicinati troppo? Tende sugli scogli, è evidente. Non era la prima volta che la Concordia si avvicinava così al Giglio. Già la scorsa estate, nella notte di San Lorenzo, quella delle stelle cadenti, la nave da crociera si era mostrata con tutte le sue luci alla piccola isola. La gente del posto lo ricorda bene e l'ha ripetuto agli investigatori, che vogliono capire anche quanto frequente fosse questa prassi di sfidare gli scogli per regalare uno spettacolo di luci. Cioè, qui nell'isola si sapeva, voi sapete che cos'era, il 9 agosto il Concordia era già passato vicino, sì. Diciamo avvicinata all'isola per far vedere l'isola. Due, tre. Che era sempre la Concordia. Spettacolo che era passato, tutta illuminata, sì. Voi ve la ricordate la scorsa estate, la nave che si è avvicinata, che hanno raccontato? Sì, sì, era la notte del 9 di agosto. Io ho un piccolo negozio là al Molo Rosso, allungavi la mano, era come se tu la toccassi. No, io ne ho viste passare navi di qua davanti, ma così vicino come quella del 9 di agosto, no, non me ne ricordo, ecco. Che era poi la stessa. Era qui, è spuntata da qua dietro, era come se andasse qui alla Gabbianara, ecco, come se fosse in piedi tutta illuminata questa qua, ecco. Poi insomma, anche se passano lontano, sono grandi, sono tutte illuminate, per cui sembrano già molto vicine, ecco. E luccicante doveva essere anche l'ultima sera della nave Concordia. I saloni illuminati, il ristorante tirato a lucido, gli ospiti con gli abiti lunghi, come quel gruppo di anziani signori ritrovati giorni dopo poco lontano dal Ponte 4, il punto di ritrovo. E al ristorante quella sera c'era pure il comandante, elegante e brillante, come apparso a chi, come questo passeggero savonese rintracciato da Andrea Ferro, ha dovuto cedergli il tavolo. Succede che siamo arrivati a questo ristorante che si trova al Ponte 11 e quando arriviamo il tavolo che avevamo prenotato è occupato dal comandante. Il maître si scusa dicendo che aveva dato il tavolo al comandante e noi ci sistemo da un'altra parte. E il comandante che sta facendo? Il comandante sta mangiando. Da solo? È in compagnia di una signora bionda e di un'altra persona che non so chi sia. Si trattengono a lungo? Diciamo che intorno alle 21 erano ancora lì. Poi si sono alzati e sono usciti dal ristorante. Bevevano? Non so di sicuro, perché questo l'ho visto, che avevano un decanter di vino rosso scaraffato e che veniva versato. Poi adesso dire chi lo beveva, quanto ne avessero bevuto e così via, questo chiaramente non eravamo lì a controllare. Era rimasto impresso però che l'ultima parte di vino che era questo decanter è stato versato al comandante. Io considero che la facoltà. Dominica Cemortan ha 25 anni, origini moldave, ed è divenuta una testa chiave dell'inchiesta sul naufragio perché era con Schettino al momento dello schianto. Lo ha raccontato lei stessa alla TV del suo paese, Giornal TV, difendendo il comandante dalle accuse di aver mollato la nave e se stessa dall'ipotesi di aver avuto un ruolo, sia pur inconsapevole, nel disastro della Concordia. Non sono l'amante di Franco, ha già raccontato, e lo ripeterà ai magistrati di Grosseto che vogliono sentirla. Io considero che la facoltà un lucro straordinario e buono. Io penso che abbia svolto un lavoro straordinario. Tutto l'equipaggio è solidale con lui e pensa che abbia salvato più di 3.000 persone. Come nei fondali della Gabbianara sotto la Concordia, dove sedie sdraio e valigie da crociera si mescolano a pezzi di lamiera e fondali amati dai sub, così nell'inchiesta sul naufragio c'è un po' di tutto. Le voci dei sopravvissuti, i video dei passeggeri col panico a bordo o con i ripetuti messaggi di rassicurazione. Ci sono gli atti d'accusa dei rilievi tecnici e le testimonianze dei soccorritori. È un'inchiesta difficile questa di Grosseto perché tanto tecnica quanto umanissima, forse nelle sue cause, di sicuro soprattutto nelle sue drammatiche conseguenze. Al silenzio funereo dei saloni, dove fino alle 21.40 di venerdì 13 suonava invece l'orchestra, fa da contraltare il gran movimento al porto, quartier generale di soccorsi, cantiere per scongiurare un disastro pure ambientale, nel timore che la nave, che si muove, come registrano i tanti sistemi che la monitorano, si inabissi con le sue 2.000 tonnellate di carburante nella pancia. In realtà la contaminazione di quei fondali, cari ai sub, di fatto è già avvenuta, come ammette il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, sbarcato sull'isola da neocommissario di questa emergenza. Un'imbarcazione di 300 metri che portava 4.000 persone, tutto quello che necessitava, è a mare. Quindi la contaminazione dell'ambiente, signori miei, è già avvenuta. E questa è la grande paura del Giglio. che da quel venerdì 13 gennaio si sveglia e si addormenta ogni giorno guardando il gigante adagiato sulle sue coste, con un brivido di cui il sindaco Sergio Ortelli si fa portavoce. Il progetto di svuotamento è pronto, i tempi non sono così certi, l'aspetto del possibile rischio ambientale, per noi prima arriva la vita umana e poi arriva la salvaguardia dell'ambiente. Lei ha chiesto anche delle rassicurazioni sullo spostamento, sulla rimozione del relitto. Sì, ho chiesto velocità nelle operazioni. E l'isola, all'improvviso popolata più che in alta stagione, mette già in conto un'estate col fantasma del naufragio sullo sfondo, ma quando a notte, finite le ultime trasmissioni, si spengono i fari sulla Concordia, il buio pietoso torna a coprire la grande balena di ferro spiaggiata, venuta a morire qui, davanti all'isola del Giglio, con troppe vite ancora nella pancia.